Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo un po' di affari, parliamo dell'esperienza delle imprese, parliamo dei problemi dei rapporti internazionali tra le imprese e lo facciamo con Gian Antonio Castiglioni. Buonasera, dottor Castiglioni. Buonasera a lei. Gian Antonio Castiglioni non è uno scrittore, non è un economista, ma è un uomo d'impresa, un uomo che ha vissuto molto tempo all'estero, in imprese italiane, in imprese estere, in Italia, in Europa, in molti paesi. È un appassionato di bridge, ha scritto libri di bridge e adesso ha pensato di mettere insieme un po' tutte le sue esperienze facendo qualcosa di diverso, facendo un racconto, un romanzo, un lungo libro in cui parla della realtà economica, parla di imprese e parla appunto soprattutto dei rapporti tra il Giappone e la realtà europea. Questo libro si intitola Missione Jinshin, dico bene, dottor Castiglioni? Esatto. E perché le è venuto in mente di scrivere questo romanzo? Ma guardi, io sono da sempre appassionato dalle storie, no? In generale, e soprattutto quelle degli scrittori sudamericani che mi affascinano con le loro magie. E a un certo punto dentro di me mi sono accorto che stava nascendo una storia, no? E così è nato il mio libro, che ho scritto di pancia, come si suol dire. Questo romanzo si sviluppa quasi tutto in Europa e è un po' un diario di viaggio, mi sembra, questo romanzo, un diario di una persona che racconta un po' la sua vita. Più che altro la missione di questo di Federico, che è un po' il protagonista di questo romanzo, la missione che ha di acquisire una serie di aziende in Europa per conto di una multinazionale giapponese. Quindi nel sottofondo c'è sempre, come dire, l'ombra latente del Giappone, questo paese molto difficile per noi stranieri. E tutto sembra andare nel migliore dei modi in questo programma di acquisizioni, finché a un certo momento si profila all'orizzonte una congiura di palazzo che mette in pericolo il presidente di questo gruppo, e qui si inserisce il protagonista in maniera abbastanza fortuita e ha una reazione che poi va a incidere sull'ambiente, sul complesso ambiente giapponese. Questa è un po' la storia. Ecco, la storia poi è una storia che si dipana in molti episodi, in molti elementi, in molti incontri. Ecco, quello che è importante e interessante, al di là della storia che comunque ha un suo interesse, ma che lasciamo poi alla scoperta dei lettori, è il fatto che nel libro ci sono molte osservazioni che aiutano a capire la realtà giapponese, aiutano a capire anche le diversità del modo di approcciare il sistema economico, diversità magari che sono anche, che possono apparire banali. Per esempio, mi ha colpito il fatto che nei messaggi che mandano i giapponesi all'inizio si parla del tempo, della salute, del fatto di essere più o meno contenti, e poi dopo si dedicano poche righe in fondo ad affari che valgono miliardi di euro. Sì, cioè la difficoltà insita nel sistema giapponese è soprattutto, direi, nella comunicazione. Quindi non è tanto una difficoltà di lingua, la lingua si può imparare, ma è la difficoltà di usare questa lingua. Io mi ricordo che ero appena arrivato in Giappone, ebbi l'opportunità a cena di avere come commensale un padre gesuita, che tra l'altro gestiva una scuola per stranieri, scuola di giapponese, che era in Giappone da diversi anni. E allora gli chiesi: ma quanto tempo ci vuole per riuscire a capire quello che dicono e farmi capire? E allora questo gesuita ha sorriso e mi ha detto: vede, se lei si impegna seriamente, nel giro di un anno riesce a capire quello che dicono e a farsi capire. Per capire quello che non dicono è quello ci vuole 20 anni, no? Era sembrata all'inizio una battuta brillante, simpatica, ma poi si è rivelata veramente vera, cioè sì. Si è rivelata che essere la realtà, perché ci sono molti, come dire, sottintesi, allusioni, non si va mai direttamente, perché non è considerato come dire, di buona educazione trattare direttamente, dire sì, no, sono tutte cose larvate, per cui per noi è un dedalo molto difficile, mentre per loro ci sono abituati da bambini, insomma, a questi equilibrismi verbali. Ecco, però nonostante tutto, almeno dal libro, appare come un paese che è aperto anche alle esperienze esterne, anche alla partecipazione di personalità. Lei a un certo punto nel libro racconta di questo personaggio che diventa membro del consiglio di amministrazione di questa grande multinazionale e comunque viene accettato, anche se ci sarebbero stati grandi personaggi che avrebbero avuto altrettanti meriti per entrare, giapponesi appunto, per entrare in questo consiglio. Quindi un po' di apertura di questa società molto, molto, che sembra chiusa, poi perché è una società abbastanza rigida nei suoi schemi, ecco, qualche apertura comunque c'è, dottor Castiglioni. Sì, sì, c'è fino a un certo punto. Direi che forse quello che viene, diciamo, uno dei contenuti di questo romanzo è un pochino eccezionale, nel senso che uno straniero che appunto arrivi a quei livelli lì nell'ambito di una multinazionale giapponese non è cosa comune, questo senz'altro, ed è dovuta al fatto che il protagonista e il presidente di questo gruppo hanno praticamente una stima reciproca che è nata precedentemente a questo incarico, e quindi però non è una cosa normale, ecco, questo certo. Senz'altro direi che è una cosa abbastanza eccezionale, anche perché lei dice nel libro bisogna stare molto attenti appunto a come si parla, chi non è giapponese dice: nella storia del Giappone sono state innumerevoli tragedie causate da una mezza parola detta inavvertitamente alla persona sbagliata. Questa va via, sì, un po'. Perché poi si parla, sì, c'è chi ha le orecchie lunghe, quindi ha amici in giro, le cose si vengono a sapere. E anche una cosa che capita appunto in questo romanzo, che ha quasi dell'incredibile, è che si vengano a sapere delle cose in Giappone che sembrerebbe strano che arrivino a saperlo, perché è qualcosa che succede in Sud America, ma in Giappone vengono a saperlo. E quindi è vero questo, ecco, è verissimo. Io dedicherei l'ultima parte di questo nostro incontro a parlare un po' del Giappone, perché è una realtà economica che resta una realtà molto forte, ma di cui negli ultimi anni si parla di meno, ormai si parla quasi solo di Cina, si parla quasi solo di India, esatto. Ma il Giappone resta una grande potenza economica. Certo, però ha avuto anche lui i suoi problemi, perché ricordo anni fa c'è stata una crisi abbastanza robusta del sistema bancario, quindi hanno problemi. Adesso chiaramente, per esempio, oggi il Giappone è molto meno caro, no? Per esempio un turista che ci va lo trova molto meno caro di quello che era 15-20 anni fa, perché col fatto dell'euro la cosa si è, cioè lo yen si è molto, come dire, svalutato, sì. E quindi certo sono dei grossi lavoratori, gente molto seria, molto cioè li rispetto molto, poi hanno dei valori che anche lì sono proprio valori giapponesi, cioè quando noi parliamo di entità tipo, non so, la fedeltà, la lealtà, eccetera, l'onestà, queste parole qui in Giappone hanno dei significati che sono per noi occidentali diversi. Cioè noi ci adattiamo un po', insomma. Non useremmo quella parola per indicare quel tipo di comportamento, ecco. Quindi anche in quel senso lì, nel senso dei valori, hanno dei valori diversi. Io per esempio ho vissuto in Estremo Oriente, conosco bene i cinesi, eccetera. Sono praticamente come noi. Mangiano col bastoncini, ma però hanno gli stessi valori nostri. In Giappone è diverso. Ecco, un paese diverso, ma un paese che continua a essere un polo economico che va preso in considerazione. Beh, certamente, certamente. Grazie a Gian Antonio Castiglioni di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro Missione Jinshin, edito da Albatros, sono 448 pagine per 18 euro. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato, a Peter Bescapè in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.